Antes se decía que la Amazonía era el pulmón del mundo. Hoy se dice que la Amazonía es el corazón del mundo, porque estamos en el cambio climático. No future. I primi anarcopunk lo urlavano a squarciagola. No future! Non c'è futuro. Un motto che annienta ogni avvenire possibile. Sembra che niente e nessuno ci potrà salvare. Né la fine del capitalismo, né i cavalieri dell'Apocalisse che da tempo si aggirano tra noi, né Gesù Cristo in persona. Non c'è speranza. Credere nel futuro è inutile. I punk cantavano il rifiuto della guerra, la disoccupazione, l'ipocrisia e l'irriverenza della vita. Tutto è perduto. Sganciate quella cazzo di bomba atomica una volta per tutte. Queste idee sono molto lontane dalla delirante condanna di Fukuyama, che sanciva la fine della storia ed era sintomo del falso trionfalismo della borghesia finanziaria globale, secondo la quale dopo il capitalismo, che in fondo ha solo 827 anni, non ci sarebbe più nulla. L'idea del no future del punk modifica il corso lineare della storia. Non procediamo seguendo una linea sequenziale che parte dal passato, attraversa il presente e si dirige verso il futuro. A conti fatti, viviamo la storia come un presente fallito e mal riuscito. La visione che molti uomini e donne muruimuina dell'Amazzonia hanno della storia è in sintonia proprio con questa idea del corso del tempo. Non si tratta di uno schema mentale indigeno generico e totalizzante, come amano sostenere certi antropologi, ma di alcune idee che circolano nelle conversazioni abituali tra nativi. Il futuro è il nostro passato, si dice in Amazzonia. Il concetto è potente quanto elementare. Come i punk, anche i muruimuina si sentono assediati dall'egoismo, dalla vanità, dalla guerra, dall'inquinamento e dalle forze predatorie esterne. Il presente è in frantumi, eppure, attraverso le crepe della distruzione, filtrano le luci dell'autodeterminazione, della conoscenza ereditaria, della solidarietà, della cura reciproca e dello sforzo quotidiano della collettività. Il loro è un cammino di lotta storica che va percorso guardando al passato, alla cultura e alle lezioni politiche apprese dai predecessori, che in uno scenario drammatico e violento come quello attuale tracciano la rotta per affrontare il futuro. Si procede con lo sguardo rivolto al passato e si vive in un presente continuo costruito sugli insegnamenti degli antenati. C'è ancora tanto passato davanti a noi. Questa premessa trasforma il corso sequenziale e teleologico stesso della storia del capitalismo. Nell'epoca lineare del presunto progresso tecnologico e mercantile, i muruimuina non trovano una collocazione. L'eco di questa idea può essere colto anche nella concezione degli Aymara delle Ande boliviane, secondo la quale il passato, in quanto conosciuto e visibile, si trovi davanti a noi, mentre il futuro, nascosto alla vista, sia alle nostre spalle. Questo modo di concepire i fatti storici è tipico dei bizzarri esponenti di un pessimismo speranzoso o di un ottimismo tragico. Realizzare di non essere condannati al ruolo di marionette nel teatrino del mercato è il fulcro stesso della questione. Per quanto possa sembrare incredibile, siamo soggetti alle cospirazioni del caso più di quanto si possa immaginare. Possiamo intervenire sul corso della realtà con la volontà e con i nostri corpi. Tra i muruimuina, guardare al passato innesca il presente continuo. La storia si sviluppa in seno a chi la abita e le dà vita, senza alcuna pretesa di governare l'avvenire, ma nemmeno facendosi sconfiggere dall'impossibilità di agire. Per comprendere meglio il nostro posto nella storia, o per complicare le cose ancora un po', possiamo pensare adesso come a un'imprevedibilità controllata, simile a quella dell'improvvisazione nel jazz, nella quale con la padronanza dello strumento e a tratti dello svolgimento si affrontano tutte le trasformazioni. Alla fine si impara sempre qualcosa. Da questo punto di vista, il futuro non esiste, non si può vedere, è terra di nessuno. C'è solo una molteplicità di presenti in atto che guardano al passato. Immaginare di continuo il presunto futuro è l'atteggiamento di un malato d'ansia che, in preda allo smarrimento, avanza spinto dalla disperazione e dalla solitudine. Se dovessimo ammettere l'idea di un domani, potrebbe essere solo quella di una varietà di futuri possibili, tra i quali finiremo per scegliere il presente. Il futuro è oscurità, perché in essa possiamo illuminare i nostri passi. Se fosse luce, ci accecherebbe e il cammino sarebbe impossibile. Si procede guardando al passato, perché è da lì che arriva il bagliore che rischiara il sentiero. La nostra fine farà da luce a chi verrà dopo di noi, innescando il legame vitale tra nascita e morte nello scorrere della storia. In altre parole, il futuro è il nostro passato, come dicono i Muru Imuina. Nel corso della vita, il domani non ha importanza, solo il presente continuo comune è fondamentale. Non si tratta di un carpe diem individuale, ma di presenti continui che si intrecciano in una coreografia quotidiana che mette in guardia dall'illusione del futuro. Il poeta Paul Valéry sosteneva che il problema del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta. Quello che chiamano futuro o futuri è una mera elaborazione dei drammi che gravano su ogni momento storico. Sono paure o desideri, contenuti mentali, polvere di stelle che produce miraggi. Per molti Muru Imuina, nella storia esistono solo le decisioni prese in base alle conoscenze e alle lezioni ereditate. Non si aspettano di essere salvati da niente e da nessuno. Probabilmente condividerebbero quanto detto dal popolo Hopi. Noi siamo quelli che stavamo aspettando.